Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, la puntata appunto domenicale che fa seguito a quella che abbiamo invece il sabato, l'appuntamento del sabato, l'appuntamento della domenica. Come sapete ormai da diverse settimane Magazine 24, la rassegna stampa dei settimanali, si è sdoppiata. Allora vediamo che cosa di interessante ci stanno proponendo i settimanali e i mensili in edicola in questi giorni. Innanzitutto vorrei cominciare da una cosiddetta buona notizia. Noi pensiamo spesso e giustamente ci lamentiamo della quantità di tasse che ci vengono fatte pagare, non solo in Italia naturalmente, abbiamo parlato proprio qualche puntata, qualcuna delle puntate scorse della riottosità, della difficoltà a pagare le tasse presente anche negli Stati Uniti da molti anni. Bene, dovete sapere che è esistita anche una tassa sulla neve e non esisteva tra l'altro solo in un paese ma in molti paesi. L'ho scoperto leggendo storica di questo mese, è in edicola tra l'altro da pochi giorni. Per molti secoli, infatti, fino ovviamente all'avvento del frigorifero, l'unico modo per avere del ghiaccio con cui conservare gli alimenti era la neve, quindi si usava trasportare e stoccare, immagazzinare la neve. Lo stoccaggio della neve in montagna e il suo trasporto nelle città furono alla base di un commercio fiorente in ogni parte d'Europa, scrivono da storica, così che tale attività fu tassata in pratica da tutti, compreso lo Stato Pontificio. A Madrid, che era la città che consumava più neve di tutti, 5 kg all'anno a testa per abitante, la tassa sulla neve produceva introiti pari a quelle sul vino e sullo zucchero. Così pure da noi, il Vaticano aveva dichiarato ad esempio i suoi diritti sulla neve raccolta nel raggio di 60 miglia da Roma. Ogni anno a Roma si consumavano 200 tonnellate di neve che arrivava dai castelli romani o dal Terminillo. La neve veniva poi conservata in buche profonde e trasportata di notte, ovviamente su carri che avevano diritto assoluto di precedenza. Questa fiorente attività portava molto denaro nelle casse degli stati. L'importanza della neve, tra l'altro, anche come risorsa economica, è testimoniata dal culto diffuso in tutta Italia della Madonna della Neve, cui è legata anche la fondazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Questo su storica di questa settimana. Se pensiamo appunto adesso di pagare molte tasse, beh, bisogna anche tenere presente che in epoche passate si pagavano anche le tasse sulla neve. La citazione della neve, quindi una citazione ambientale, verde, ecologica, come si dice, mi ha richiamato la copertina e direi buona parte dei contenuti del numero speciale presentato da Corriere della Sera in 7, in edicola da giovedì scorso, un numero speciale in cui appunto ci si occupa del vivere verde. Il numero è interamente dedicato, penso l'abbiate visto in questi giorni, a tutta una serie di attività verdi, tra cui ad esempio come viaggiare stando attenti a non inquinare, quindi quali accorgimenti, quali mezzi scegliere, quali vacanze sono più o meno inquinanti. Ad esempio ci informano che ci sono anche degli alberghi che hanno l'etichetta verde. Questo nella parte, diciamo, del magazine del Corriere della Sera 7, che analizza poi tutti i vari risvolti del vivere verde, partendo da questa domanda: quanto aiuto possiamo dare al pianeta, tanto se ci comportiamo nei modi giusti? E poi appunto 164 pagine dedicate al bene più grande, come viene descritto, il nostro futuro. Ma tanto parlare di ecologia, che è un tema ricorrente, un tema che viene presentato tutte le settimane sui settimanali, sui periodici, nonché appunto dai quotidiani, mi ha colpito quando ho aperto invece Vanity Fair, perché Vanity Fair ci informa in un'intervista di Enrica Broccardo che c'è una giornalista americana, il suo nome è Stephanie Iris Weiss, che si è occupata anche dell'impatto ambientale della nostra vita sentimentale e sessuale. Dice: almeno l'amore fatelo verde, è il titolo di questa intervista. Anche sotto le lenzuola si può contribuire a salvare il pianeta. Un saggio americano spiega come fare. Ora, al di là della curiosità innegabile che può suscitare questo tipo di declinazione dell'ecologia, e appunto l'ecosex, come viene spiegato nel libro di questa signora, cioè siate verdi tra le lenzuola, fate sì che la vostra vita amorosa diventi sostenibile, comportati in modo verde. E la signora si occupa, come ci informa la Broccardo appunto su Vanity Fair, di tutti gli aspetti che possono interessare la vita sentimentale, dal trucco, gli abiti, il cibo, la musica e poi naturalmente tutti i vari strumenti, gli anticoncezionali e quant'altro, insomma, si possa interessare una vita di coppia. Però tutto questo ve lo racconto perché c'è una risposta finale che mi ha lasciato decisamente perplesso. A un certo punto Broccardo chiede alla signora Weiss, in ordine di importanza, qual è la cosa migliore da fare per rendere la nostra vita sessuale ecocompatibile. La risposta della signora Weiss è la seguente: non avere figli. E spiega, ogni nuovo nato equivale a 9.441 tonnellate in più di anidride carbonica nell'atmosfera terrestre. Ecco, trovo che, se me lo consentite, un tipo di risposta del genere suoni decisamente paradossale per chi si preoccupa di salvare il pianeta, quindi di salvare il futuro, e poi come consiglio più avveduto di tutti, soprattutto invita a non avere figli, addirittura traducendone contabilmente l'impatto in termini di anidride carbonica. Cerca forse di salvare questa posizione decisamente poco difendibile la signora Weiss con il prosieguo della risposta, in cui dice: l'adozione è una scelta più ecologica. Ecco, qui devo dire che forse la signora Weiss si è un pochino fatta trascinare dalla sua convinzione ecologica. È curioso appunto rilevare che da qualche parte certe istanze, certe esigenze assolutamente condivisibili come l'attenzione per l'ambiente possano un pochino deragliare in direzioni impreviste. Allora, deragliare verso l'imprevisto, è deragliata un po' anche una riforma che riguardava i trasporti in Francia. I francesi hanno, anche loro verrebbe da dire, perché da noi è successo qualche anno fa, deciso di cambiare il loro sistema di targhe delle auto e delle vetture in genere. Che cosa hanno fatto? Ce lo riferisce l'Economist di questa settimana. La cosa era sembrata abbastanza semplice: hanno cercato di non legare più la targa al dipartimento in cui il proprietario dell'auto risiedeva, e quindi dice con la nuova regola una targa appartiene alla macchina, resta con la macchina anche se il proprietario poi cambia indirizzo, quindi si trasferisce da un dipartimento, diciamo una provincia, all'altra. E quindi, come logica conseguenza, spiega appunto l'Economist, le nuove targhe non dovrebbero più contenere i riferimenti, che erano riferimenti numerici, dei vari dipartimenti. Ecco, questo ha provocato però una fortissima reazione, un po' come quando da noi si è deciso di non prevedere più le targhe delle province, cioè di organizzare le targhe di automobili basate sulle province. E lo stesso è accaduto in Francia, e infatti c'è stata una sorta di sollevazione e successiva correzione. È stata fatta anche una campagna in Parlamento per dire non bisogna mai lasciare senza l'indicazione del dipartimento le automobili, i veicoli che circolano, e così hanno poi consentito invece di reinserire l'indicazione del dipartimento, una cosa che l'Economist dice è sfociata in un brutto pasticcio. Primo, perché ognuno può mettere il numero del dipartimento un po' dove gli pare e anche nella misura che gli pare, e con il che appunto diventa difficile sapere se è stata data o non è stata data l'indicazione, e poi perché in questo modo ci sono ovviamente dei veicoli che contengono questa indicazione e altri che non la contengono affatto. Ma perché si pensava che questo avrebbe in qualche modo aiutato? Perché non indicare l'indicazione del non indicare il dipartimento poteva aiutare a evitare magari atti di vandalismo quali si verificano ad esempio da noi abitualmente con le partite di calcio. E in realtà, dopo un anno dalla possibilità di ritornare a dire da dove si proviene, dove si abita sostanzialmente, tramite la targa dell'auto. Ebbene, hanno potuto anche fare una statistica di quali sono più fieri delle loro origini. Sono quelli che vivono attorno a Lione, in particolare nel 70% dei casi hanno scelto di indicare il dipartimento. I meno fieri sarebbero quelli di Parigi, quelli che abitano nella zona di Parigi, che forse cercano anche però, ed è la conclusione dell'articolo dell'Economist, di difendersi da eventuali atti di vandalismo, evidentemente non godendo di una ottima stampa, di una buona reputazione in altre parti del paese, e quindi quando si recano poi in trasferta evidentemente non hanno piacere di essere riconosciuti come provenienti da Parigi. E allora abbiamo parlato di traffico, e allora vi parlo di weekend, perché trovate da venerdì in vendita con il Sole 24 Ore la nuova uscita di weekend in Europa, i Viaggi del Sole naturalmente, proposto in edicola in vendita con il nostro quotidiano a 6,90 euro. Si parla di weekend in Europa, ci sono tutta una serie di destinazioni della più varia natura, i fine settimana da gourmet, quelli appunto per mangiare, per scegliere posti dove mangiare bene, il fine settimana da itinerari d'arte, e poi quelli più dedicati allo sport, al mare o all'avventura. Giusto per darvi un'idea, si passa da consigli per andare a Bratislava, quelli per recarsi in Provenza, oppure per la Finlandia, l'Irlanda, Monaco, Atene, e ancora la Spagna, Bruxelles o la Bretagna. Tutte indicazioni che trovate appunto sui Viaggi del Sole, il numero di maggio, in vendita da venerdì con il Sole 24 Ore. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo cominciato questa puntata di Magazine 24 parlando di Storica, del mensile Storica. Torniamo ancora sul mensile Storica, perché all'interno del numero di questo mese c'è un interessante servizio sui geroglifici. Sapete tutti, sono appunto il modo di scrittura degli antichi egizi. La cosa interessante è che il servizio non è firmato solo da un giornalista, ma soprattutto da Andrés Ayen Pérez, che partecipa alla Società Catalana di Egittologia, è uno storico, quindi un esperto della materia. E devo dire, si scoprono un sacco di cose. Tra l'altro all'interno c'è tutto anche un meccanismo per capire come si leggono, come abbiamo imparato a leggere questi segni, questi curiosi segni che appunto compaiono in Egitto. C'è persino una doppia pagina in cui si trova la traduzione in geroglifico appunto di una serie di un breve racconto che è tratto appunto da un racconto dell'antico Egitto. Vi segnalo solo qualcosa, innanzitutto ovviamente per gli egizi la parola era assolutamente importante, figuriamoci la parola scritta. Questo è una cosa che mi piace dire in una rubrica che naturalmente si occupa di parole scritte, segnala parole scritte agli ascoltatori. La parola, secondo il popolo del Nilo, era il mezzo di cui la divinità si avvaleva nella sua attività creatrice. Questo ci spiega Ayen Pérez nel suo articolo pubblicato su Storica. I sacerdoti erano così i guardiani della scrittura sacra, erano depositari infatti del culto della divinità, e quindi gli unici che erano in grado poi di leggere e scrivere i caratteri geroglifici, che erano aumentati enormemente perché nel periodo tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo erano molto molto cresciuti. La scrittura egizia classica del 2000 avanti Cristo aveva solo 750 segni, quando si arriva all'epoca greco-romana ce n'erano più di 5000. In questo modo chiaramente questi segni sono diventati una sorta di crittografia, cioè un linguaggio misterioso, e solo i conoscitori, che erano poi i sacerdoti, potevano interpretare questo linguaggio misterioso. Un'altra cosa interessante è quella che non esisteva un solo modo di scrivere in geroglifico, per dir così. così, ma ne esistevano addirittura tre. I sacerdoti infatti impiegavano tre sistemi di scrittura: c'era il geroglifico, quello che siamo abituati a vedere nelle raffigurazioni, nelle iscrizioni su pietra, e aveva delle finalità sacre. Poi c'era il sistema ieratico, cosiddetto, era quello che si usava nei libri, si usava anche negli atti ufficiali, e poi c'era quello demotico. Demotico era nella pratica quotidiana. La scrittura geroglifica, spiega ancora Storica, restò in uso dagli albori della lingua egizia fino alla sua estinzione, e rappresentava un po' la grafia per eccellenza. Come detto, si usava nei monumenti, si usava nelle iscrizioni di carattere politico e religioso. Poi la scrittura cosiddetta sacerdotale o ieratica era una sorta di corsivo, quindi una specie di geroglifico semplificato. Si sviluppò per esigenze della vita quotidiana, fondamentalmente in documenti civili, religiosi, in opere letterarie, e veniva scritta sui papiri, sulle tavole di legno o su frammenti di ceramica. Si diffuse così parallelamente ai geroglifici. Il suo utilizzo però venne meno con la comparsa di una terza scrittura, sempre basata sui geroglifici ma semplificata ulteriormente, che viene chiamata demotica, e quindi una sorta di scrittura ulteriormente popolare, più popolare di quella ieratica, e che finì per essere poi la scrittura di utilizzo per gli atti della vita quotidiana. È interessante anche sapere, lo riferisce sempre appunto Storica, che per molti anni non abbiamo avuto idea che i geroglifici fossero un sistema di scrittura. Anche i segni studiosi erano convinti che fossero più che altro delle decorazioni molto elaborate, che fossero proprio una scrittura è stata una riscoperta recente, così come la capacità di interpretarli. Allora, torniamo ai giorni nostri, prendiamo Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana si occupa di un tema che è caro anche alla First Lady degli Stati Uniti d'America, Michelle Obama. Sapete che Michelle Obama ha lanciato una campagna che si chiama Let's Move, cioè muoviamoci, il suo motto per combattere l'obesità infantile. Ora, quello che forse non sapevamo, e che invece Famiglia Cristiana ci ricorda in un articolo di Simonetta Pagnotti, è che anche in Italia comincia a esserci un problema di obesità infantile, probabilmente meno grave di quello che accade negli Stati Uniti d'America, che appunto ha meritato le attenzioni della First Lady, ma comunque un problema evidente. Il paese dei bambini che pesano troppo, scrive Simonetta Pagnotti, un lapsus assolutamente comprensibile visto l'argomento, stanno ore davanti alla PlayStation, mangiano troppo, soprattutto male, e al sud ingrassano più che al nord. Ci spiega ancora Famiglia Cristiana, i bambini italiani sono ipernutriti, soprattutto fanno poco movimento, pesano merendine, bibite gassate, patatine fritte, ma ancor di più pesano le ore passate davanti alla PlayStation e alla televisione. È un fenomeno che viene troppo spesso sottovalutato, ma l'eccesso di peso in età infantile poi condiziona l'obesità adulta e diventa una vera e propria malattia con elevati costi sociali. C'è stata un'indagine realizzata su un campione regionale di diverse migliaia di alunni, è stata finanziata dal Ministero, e secondo questa indagine 1.100.000 bambini compresi tra i 6 e gli 11 anni sono in eccesso di peso, 380.000 di questi sono decisamente obesi, quindi vuol dire che il 23,1% è in eccesso di peso, più dell'11% è decisamente obeso. Michele Caruba, che è il direttore del Centro Studi e Ricerche sull'Obesità qui all'Università di Milano, parla di una vera e propria epidemia. E poi i dati appunto territoriali, salvo poche eccezioni, scrive ancora Simonetta Pagnotti, i bambini delle regioni meridionali sono maggiormente a rischio. In Campania, per esempio, quasi la metà dei ragazzi è sovrappeso, in Friuli al contrario è in eccesso di peso soltanto un quarto, il 25,2. In Calabria si torna a un 41%, in Sardegna si scende di nuovo a un 25%. In generale il 43% dei bambini delle regioni del sud dovrebbe affrontare la malinconica necessità di mettersi a dieta. Questa è la considerazione con cui chiude la segnalazione di Famiglia Cristiana. Torniamo all'estero in chiusura di questa puntata di Magazine 24, perché da Newsweek e precisamente da un articolo di Daniel Gross apprendiamo che gli americani stanno tornando al denaro contante. Ora, per capire effettivamente la portata rivoluzionaria di questa abitudine, bisogna sapere che l'utilizzo della carta di credito negli Stati Uniti e in generale degli acquisti a rate, quindi dell'indebitamento, insomma evitare di pagare in contanti, tutto in contanti, o del pagare cash, come ormai abbiamo imparato a dire anche noi, bene, è proprio una sorta di dogma. E infatti la circostanza che dopo la crisi gli americani abbiano cominciato invece a spendere esattamente quello che avevano in tasca e non a indebitarsi ulteriormente, a utilizzare le carte di credito, beh, ha fatto riflettere non solo Daniel Gross ma tutta una serie di esperti, di studiosi. Il tasso di risparmio, ad esempio, che era prossimo allo zero nel 2007, quindi non c'era una particolare propensione al risparmio negli Stati Uniti, è salito al 3,3% nel gennaio di quest'anno, segnala Gross sul Newsweek di questa settimana. Dall'altra parte invece la quantità dei prestiti concessi è diminuita del 19%, quindi una sorta di riorientamento. Dice Gross, considerato in senso un po' ampio, il ritorno al contante e quindi al controllo del debito non può che portare benefici. Ma gli americani, scrive ancora lui, stanno scoprendo che tornare al contante, che utilizzare il contante può consentire anche una certa disciplina, cioè disciplina di spendere, di considerare le conseguenze a lungo termine della propria spesa. Naturalmente il mercato si è già accorto di questa tendenza e infatti ci sono delle società che hanno cominciato a proporre dei pagamenti mese per mese, dando modo al consumatore, ad esempio dei fornitori di energia elettrica o di altri servizi, dando modo al consumatore di verificare di volta in volta quanto può spendere e quindi evitare, diciamo, l'addebito costante e continuo che poi si fa fatica a tenere sotto controllo. Un cambiamento decisamente importante per le abitudini degli statunitensi. E con questo abbiamo concluso questa puntata di Magazine 24. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia anche questa mattina. Naturalmente grazie anche a Margherita Aina e Vittoria Mussini che mi hanno aiutato nel preparare questa puntata. Vi rimando al nostro sito www.radio24.it per riascoltare Magazine 24 e tutti gli altri programmi della nostra radio. Grazie e buona domenica a tutti.